parlò d'amore. Forse mai la rivedrò, ma la penso ancora. E cercando vo di lei così notte di, nei miei sogni per l'eternità mia sarà. Una bimba in calico presso Santa Fe, mai scordarla non potrò, tutto è lei per me. Se un dì l'incontrerò, le dirò, vieni amor, laggiù con me in calico.